devo fare un annuncio. Regista, devo fare un annuncio. Se volete un'Alessandria migliore, votate il narratore. E se volete Spinetta Provincia, votate Narra e non ci scassate la minchia. Narratore! Che faccio il bravo ragazzo, rispetto, lo apprezzo, accetto, ringrazio, anche quando ne ricevo meno di quello che lascio, il mio te lo offro, se ci mangi non ti sazio, sto con la pazienza sull'orlo del collasso, mantenendo il controllo nell'astio, chi lo dice che non mollo, esco pazzo, schizzo e ammazzo, vetro guarda chi sei, la mia coscienza grida, quindi no, non lo farei, anche se in realtà vorrei e non dovrei accumulare tutto quanto su di me, ma resto un cumulo di merda da spalare, già ce n'è a volontà, io ne ho, lui ne ha, forse un po', non si sa, ci rimetto sempre sangue per cercare la verità è qua, la mia società te ne dà una varietà. Io ci sono fratello carnal, ma se trami alle spalle poi qualcosa cambierà. Bevo acqua santa, respiro barabba, alla larga se il buon non s'arrabbia. E tanto amore non sempre ti ritorna, e mi ritrovo con le ali e l'aureola tra le corna. E ho anche rubato il forcone alle peggio persone per combattere il male con il suo stesso nome. Non puoi battere Satana con l'orsetto tende. Ci va un pazzo contro un pazzo come Demolition Man. Sul libro sacro non trovi queste firme, se fuori faccio il tanto sì come Val Kilmer. Ascolta me, frena la tua follia, lo faccio per te. Non ci riesco, no, non ci riesco. E mai agisce in fretta, a sete di vendetta. Ma prima di impazzire, aspetta, prima di impazzire, aspetta, prima di impazzire, aspetta. La mia coscienza nel mio corpo sta stretta, la mia coscienza nel mio corpo sta stretta. Mi illumino d'immenso, scrivere e gettarmi nel silenzio. Vorrei fermare il tempo come Dorian Gray, credere in qualcosa che non sei. L'amore è donna, quindi non vivo senza lei. Uccido e dopo spiego, combatterò il mio boia. La mia vita è un ritratto di Francisco Goya. Il principe degli ultimi, tentativi inutili, futili pensieri, indecifrabili come la stella di Rosetta. Le solite paure di un qualcosa che ti aspetta. Ogni giorno che passa sorridi alla morte, quindi è per questo che mi incazzo a mezzanotte. Passato con il viso di un angelo che piange in paradiso, vissuto senza un credo, completato come Amleto. Si rispecchia nell'immagine di un mostro, trascinando la sua croce come il Sansepolcro. Le sacre scritture, giornate più magre, nessuno può comprare l'amore di una madre. Per un figlio immaginato, l'anima malata con il cuore di un soldato. Il mondo gira solo se tu giri insieme a lui, per poi vivere sperando e combattendo come rap a lui. Facili principi, tenendo stretto un'arma, la gioia non la trovi nell'ombra di un fantasma. La storia si è mutata, ora che Damocle ha spezzato la sua spada. Dammi forza, grida più forte perché non riesco a sentire. Un minuto per chiarire ciò che in fondo a tutti avrei voluto dire. Scorgi.